piccoli sogni in abito blu. Ammiccano discreti dall'insegna di un locale, mentre tu mi proponi discoteche inquietanti e amici naif. Io speravo in un incontro galante di chic to chic. Spicchio di luna ormai non navigo più. Da molto tempo in quelle stesse acque tempestose dove tu mi trovasti tanto male in arnese e da scappare via. No, non voglio abbandonarmi ai ricordi, tuttavia ne approfitto per fare un po' di musica. Fra mezz'ora domenica sarà, fra jukebox, marciapiedi e varietà. Spicchio di luna questa notte come va? Stelle e lampioni non saprei. Spicchio di luna questa notte dove sei? Cantami o diva di quello che vuoi. Magari non gridarmi nelle orecchie mentre suono Jump and Jive, che ho cercata in tutti quanti gli alberghi di questa città. Ora fa che sia bello ritrovarti proprio qua. Ne approfitto per fare un po' di musica. Fra mezz'ora domenica sarà, fra jukebox, marciapiedi e varietà. Spicchio di luna questa notte come va? Stelle e lampioni non saprei. Spicchio di luna questa notte dove sei?